la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:30 primi 18 secondi da una assolata e finalmente gelida Milano, mi dispiace per tutte le signore in ascolto ma milanesi, beh, finalmente insomma, un po' di freddo, vi saluta Oscar Giannino e vi ringrazio per l'ascolto, è diretto in podcast, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it, continuate ancora dall'estero e dall'Italia a segnalarci la vostra disponibilità a intervenire perché dalla prossima settimana partiamo per questo spazio che abbiamo immaginato, che comprende sia giovani che se ne sono andati perché qui non trovavano soddisfazione al loro percorso formativo e al loro giuste ambizioni di lavoro, sia di coloro che invece restano qua ma insomma spiegano come qualmente se potessero dove avrebbero dovuto andare via, questo è il pensiero a cui sono arrivati, invece sono o tornati da fuori oppure pensano accidentaccio. La mia scommessa che le cose cambiassero non ha molto funzionato. Naturalmente la disponibilità è quella a raccontare la vostra storia e poi a indicarci anche come fare a contattarvi, perché dalla prossima settimana si parte. Parola d'ordine, niente geremiadi ma discrezioni, cioè non deve sembrare, non deve essere una cosa piagnona, né spirito di superiorità per chi è andato, ce l'ha fatta, eccetera, eccetera. Dobbiamo tentare di dare una rappresentazione il più possibile varia dei vari campi professionali, di corsi, laurea, specializzazione, dottorati e così via, che restituisca l'importanza di una scelta di agenda pubblica diversa da quella attuale. Un paese non per giovani deve capire che dalla previdenza alla formazione secondaria, terziaria, eccetera, eccetera, ai canali per entrare nel mercato del lavoro e nelle professioni, o cambiamo l'ottica oppure guardate... andiamo ancora più a sbattere, inutile che ci illudiamo in nome dello stellone italiano. Di cosa parliamo oggi invece? Vi invito a telefonare all'800240024. La domanda che vi faccio è secca, mi interessa, visto che parleremo di questo, poiché sono usciti i dati delle scelte dei contribuenti italiani per il 2 per 1000, cioè per la parte di IRPEF che va ai partiti e che dal 2017 inizia poi a sostituire il finanziamento pubblico con diminuzione del 20% annuo. Sono interessato a sapere se voi la scelta l'avete fatta, non naturalmente per chi, se non me lo volete dire non me lo dite, mi interessa solo sapere se l'avete fatta, perché l'avete fatta, ecco, intervenite per dircelo, e se non l'avete fatta perché non l'avete fatta, ovviamente. 800240024, vi ricapitolo subito i dati. Prima sorpresa, nel 2016, malgrado la tonitruante agenda politica che non ha fatto altro che spiegarvi che la politica prendeva la sua rivincita, che l'Italia si metteva in piedi grazie a un governo diverso, eccetera, eccetera, non sto facendo polemica contro Renzi, però insomma l'atmosfera era quella di una politica che torna a dominare l'agenda politica, no? La politica delle scelte pubbliche, scusatemi, no? Tecnici, insomma quello che conta è l'indirizzo politico, è un governo forte, perché il governo Renzi è stato un governo forte, con interventi su molte riforme, discusse quanto volete, ma insomma la politica era sembrava forte e in buona salute. E invece sorpresa, rispetto al 2015, il numero degli italiani che ha fatto la scelta del 2 per 1000, quindi destinando a un partito, indicando quale, il 2 per 1000 dell'IRPEF, è diminuito rispetto al 2015. Il 2015 aveva visto un forte balzo in avanti rispetto al primissimo dato del 2014, che era stato molto deludente per i partiti. Purtuttavia, nel 2015 la cifra di coloro che l'hanno dato, il numero, è diminuito del 14% sul 2014. Insomma, una bella sberla in meno, nel senso che le scelte valide espresse nel 2015 sono state di 1.106.000 contribuenti. Il totale delle posizioni fiscali in Italia è di 40 milioni e 700 mila, poi in realtà 10 milioni di questi non fanno dichiarazioni di nessun tipo, quindi bisognerebbe abbattere questo 40 milioni e 700 mila che è il totale delle posizioni fiscali nel nostro paese, poi a esprimere scelte possono essere al massimo 30 milioni, ma insomma l'hanno espresso 1 milione e 106 mila nel 2015, 970 mila nel 2016, ed è questo il dato, perché se in presenza di un'agenda politica forte, zero tecnici, un governo forte e la politica che deve riprendere in mano l'indirizzo del paese, eccetera, questa è la risposta dei contribuenti, qualcosa vorrà dire. Infatti la inquadriamo poi in un ampio rapporto su come la pensano gli italiani, che è uscito il 7 di gennaio su Repubblica a cura dell'Istituto Demos. Avremo qui l'Istituto Demos a farci capire che non è una sorpresa, perché in effetti la fiducia nei partiti, invece di crescere per via di un'agenda delle scelte pubbliche molto politicizzata, in realtà nel 2016 alle nostre spalle è scesa. E come si vede, questo è il dato che si legge anche nelle dichiarazioni dei contribuenti. Adesso vi ricapitolo le percentuali rispetto a quelle 970.000 che hanno espresso l'indicazione. Il totale delle scelte, il 50,5% è andato al Partito Democratico delle scelte. Anche qui il PD ha perso percentuale rispetto al 2015. Sul 2015 era il 53,9%, 54% sul totale delle scelte, è sceso al 50,5%. La Lega Nord registra un aumento lieve, ma un aumento di percentuale. Passa dal 12,5% del 2014 al 13,3% nel 2015. SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, scende perché aveva il 9,1% nel 2014, scende al 7,4% nel 2015. Fratelli d'Italia aveva il 5,5% nel 2015 e sul 5,2% nel 2016. Forza Italia, sapete che l'elettorato di Forza Italia non ne vuole sapere, ma comunque sia, era al 5% nel 2015, sta al 4,8% nel 2016. Rifondazione Comunista, che in realtà non esiste più, però continua a beccarsi perché è presente sulla scheda delle indicazioni fiscali, era al 4,2% delle percentuali, sale addirittura al 4,8%. Il nuovo centrodestra NCD passa dall'1,5% al 3,2%, quindi aumenta. E quanto alle somme più importanti, diciamo che al Partito Democratico vanno 6.400.000 euro, alla Lega Nord 1.400.000, a SEL 838.000 euro, Fratelli d'Italia 570.000, Forza Italia 615.000, Rifondazione Comunista 460.000, NCD 260.000. Prima osservazione, questo serve a spiegare la natura di questa riforma, che a me non ha mai convinto, a dire la verità. Io ero per l'abolizione secca, rispettosa del referendum degli italiani e finanziamento pubblico. Attenti a capirla bene, il significato di questo parziale, anzi diventerà totale entro un certo numero di anni, sempre che i partiti non reintroducono il finanziamento dei partiti. E ricordatevi sempre che si beccano circa 1 miliardo sommando i contributi ai gruppi, nelle regioni, comuni, province, eccetera eccetera. Quindi non è che i partiti stiano a secco davvero di denaro pubblico. Ma detto tutto questo, a me non convince per niente neanche questa forma, perché un conto è dire alzare l'agevolazione fiscale per scelte individuali verso i partiti. Qui invece le risorse sono sottratte al monte IRPEF, quindi resta finanziamento pubblico a tutti gli effetti. Non so se vi è chiaro, non è che chi indica la scelta aggiunge una cifra per il partito che ha indicato. No, sul totale del monte del 2 per 1000 del gettito IRPEF totale, una parte va ai partiti, ma è lo Stato che gliela dà sul totale IRPEF. Non so se vi è chiaro. Quindi a me sembra che abbia cambiato nome, ma in buona sostanza comunque è un meccanismo di puro finanziamento pubblico. Hanno aggirato per l'ennesima volta il referendum. Questa è la mia personalissima opinione. Qualunque tesoriere di partito vi direbbe che non è d'accordo e sbaglio, però io ve la dico come la penso. Ripeto, cosa diversa è liberi donativi fortemente incentivati, e a quel punto però non più incentivati che al terzo settore, o al restauro dei monumenti, perché francamente non la capisco questa cosa. Però detto tutto questo, perché nell'ordinamento attuale è così, le agevolazioni fiscali favoriscono se la fate a una donazione a un partito piuttosto che a una onlus, e io questo proprio non posso buttarlo giù, per dirne un'altra. Allora, dividiamo la trasmissione, prima delle vostre telefonate, appunto in due parti. Prima sentiamo un rappresentante attuale di chi storicamente più si è battuto con continuità per l'abrogazione totale, non per finta del finanziamento pubblico ai partiti, e quindi naturalmente chi ha il vanto e il merito di questa cosa sono i radicali, una minoranza assoluta, e abbiamo con noi appunto Marco Cappato, che è consigliere comunale radicale al Comune di Milano e presidente dell'associazione Luca Coscioni. Dopo la pausa sentiremo invece per Demos il professor Fabio Bordignoni, che ci inquadra questo dato, che quindi non deve stupirci in quello che gli italiani pensano sui partiti. Ma cominciamo invece da Marco Cappato, che ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio Oscar, grazie a te. Non sono più consigliere comunale purtroppo, ma per il resto grazie. Vedi, chi mi ha fatto la scheda non lo sapeva. Però ti sei candidato a una cosa. Certo. Spiega quale? A Infrastrutture Lombarde, per la liquidazione di Infrastrutture Lombarde, poi con Valerio Federico, che era il nostro tesoriere, e si tratta di questa grande conglomerata di Regione Lombardia che serve perché l'istituzione non faccia quello che deve fare, cioè gli appalti la fanno fare a una società di Infrastrutture Lombarde, e poi invece fanno fare al pubblico attraverso Infrastrutture Lombarde quello che dovrebbe fare il mercato, cioè le opere pubbliche, gli interventi infrastrutturali. Insomma, è una commistione tra potere politico e economia, dove la politica rovina l'economia e gli affari rovinano la politica. Quindi noi diciamo liquidare Infrastrutture Lombarde e le istituzioni facciano il lavoro delle istituzioni. E il cioè mercato... bandi di gara trasparente e non collusivi. Sono completamente d'accordo con questa battaglia di Marco Cappato. Sarà sicuramente la solita testimonianza, non lo so, ma ce ne fossero di più che hanno questi obiettivi precisi per fare, non dimagrire lo Stato ideologicamente, per levare le cose improprie che fa lo Stato. Faccia dei bravi, dei bandi trasparenti in maniera tale che risparmiamo fatica all'ANAC e ai magistrati delle procure. Mi accontenterei e sarebbe fin troppo. Ma veniamo al punto. Ti stupiscono questi dati per le scelte fatte del 2 per 1000 ai partiti nel 2016, Marco? Beh no, la credibilità dei partiti è ai minimi storici. In più sono diciamo uno dei movimenti politici che va forte in termini di consenso. Il Movimento 5 Stelle non è incluso nella erogazione del 2 per 1000. Nel nostro piccolo, ricordiamo ovviamente... perché già gli ascoltatori me lo chiedevano, non è incluso perché secondo quanto prevede la legge manca un requisito formale, cioè lo statuto formale del partito. Esatto. Neanche noi per la verità come radicali siamo inclusi, perché non è consentito per questa legge, che è, come tu hai detto, una legge di finanziamento pubblico ai partiti. No, vogliamo dirlo, perché assolutamente. Cioè... questa legge è una legge per il finanziamento pubblico ai partiti, di nuovo aggiramento della volontà referendaria. Noi non siamo inclusi perché non facciamo prevalentemente iniziativa elettorale, cioè non ci siamo presentati con un simbolo radicali eccetera alle ultime elezioni politiche, e quindi siamo esclusi, come se fare politica in un altro modo, tipo con le leggi di iniziativa popolare, esatto, con il referendum, non dovesse essere ammesso. E quindi questa è una legge di finanziamento pubblico ai partiti in un contesto di scarsissima credibilità dei partiti, della classe politica, e soprattutto non si riconosce il valore di servizio pubblico che i partiti possono fornire, non è previsto da questa legge, perché questi soldi vengono dati indipendentemente da quello che poi il partito ne fa. Esatto. Allora noi siamo sempre stati, non per dire, per fare finta che la politica non abbia bisogno di finanziamento e non ci siano dei costi, e ci mancherebbe altro, ma lo Stato deve andare incontro ai partiti grazie a dei servizi, in particolare la possibilità di comunicare le proprie proposte, i propri obiettivi, ma non alimentare con dei soldi di fatto a fondo perduto la burocrazia interna dei partiti, perché questo deresponsabilizza i partiti alla ricerca del consenso vero, quello sul territorio, quello dei militanti eccetera, e si crea un circolo vizioso per cui meno consenso, meno finanziamenti veri, quelli di chi ci crede, di chi paga la tessera, di chi paga l'iscrizione, e aumenta la distanza tra la società e partiti e la politica. Questo è l'effetto purtroppo perverso di tutte le leggi di finanziamento pubblico ai partiti e quindi anche di questa. Io sottoscrivo, minoranza insieme a te, naturalmente ripeto, l'opinione di qualunque partito della lista che vi ho letto sarebbe completamente diversa. Loro sostengono, fu il governo Letta a varare la riforma e poi attuata sotto l'inizio del governo Renzi, loro sostengono che questa è l'abolizione del finanziamento pubblico, che vi ricordo aggirò il referendum dicendo che era un finanziamento solo in non stabile organizzativo ai partiti, ma era in quota di voti presi. Questa fu la forma per anni con cui abbiamo continuato dal finanziamento pubblico. Si sono inventati questa roba che però, ripeto, è in percentuale del gettito IRPEF che va allo Stato, quindi è un'altra totale aggiramento. Questo è quello che mi riguarda, io la penso come Marco Cappato, ma non posso che sottolineare, cari ascoltatori, che i partiti, grazie alle percentuali e al numero esiguo di coloro che hanno convinto a esprimere l'indicazione, hanno perso un bel po' di quattrini, perché in realtà loro, il 2 per 1000 copriva una cifra totale per il 2016 di 27,7 milioni. Siccome sono stati optati per via del numero ridotto di questi 970.000 solo 11,7 milioni, il risultato è che i partiti possono così misurare la loro crisi di credibilità, perché 16 milioni resteranno allo Stato. Posso dirvi, io sono molto felice di questo, perché in realtà così vengono utilizzati per i motivi veri per cui si pagano le tasse, anche se poi non sono d'accordo sull'allocazione, però restano nelle casse per i quali io sono tenuto al mio dovere di contribuente, no? Mentre invece quest'altra parte è sottratta a quello che fa lo Stato e va ai partiti. Quindi è finanziamento pubblico e minoritariamente, io e Marco Cappato ve lo ripetiamo, io ringrazio Marco, adesso abbiamo l'informazione sul traffico e poi sarà con noi il professor Fabio Bordignon per farci capire come lo studio di Demos pubblicato qualche giorno fa in realtà conferma che gli italiani hanno meno e non più fiducia di prima nei partiti. Tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, stiamo parlando dei dati sulla scelta del 2 per 1000 ai partiti fatti dagli italiani che sono stati resi noti dal MEF ieri. Arretramento, meno 14% del totale di coloro che hanno espresso un'indicazione, siamo scesi da poco più di 1.970.000, anzi 1.100.000 nel 2015, scendiamo abbondantemente sotto 1.000.000 nel 2016, per questo i partiti lasciano su 27,7 milioni del 2 per 1000, 16 resteranno allo Stato e io batto le mani, è la verità. Le percentuali sono più o meno quelle, cioè il Partito Democratico si becca un po' più della metà e poi la Lega Nord il 13%. Gli altri fanno molta fatica a convincere gli elettori ad avvicinarsi alle proporzioni che beccano nei sondaggi, tranne la sinistra, perché se sommate REF, Rifondazione Comunista, che resta a beccare soldi anche se non c'è più, e SEL, sono più del 10%. Quindi, detto tutto questo, cerchiamo di capire. Il rapporto Demos, che ha scandagliato in maniera sistematica l'anno che da una parte dalla politica veniva presentato, il 2016, come quello del ritorno della politica come vera titolare dell'agenda. Basta con i tecnici d'Europa, basta con il rigore, cioè, è la politica che deve prevalere. Dall'altra vede una fortissima componente di antipolitica nella rappresentanza diretta, nell'espressione di molti partiti. E allora questo dato che abbiamo dalla scelta fiscale degli italiani è in linea con quello che si coglie nelle indagini ampie, approfondite, non nel sondaggio per chi voterete, ma sulla fiducia degli italiani oppure no? Ecco, per rispondere a questa domanda abbiamo con noi il professor Fabio Bordignon, che insegna scienze della politica a Urbino, all'Università di Urbino, e che per il Studio Demos è appunto curatore del 19° rapporto Gli italiani e lo Stato, che è uscito pochissimi giorni fa. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio Giannino, buon pomeriggio agli ascoltatori. Questo dato è coerente rispetto al vostro rapporto oppure no? Sì, è un dato che non stupisce affatto, nel senso che risulta sostanzialmente in linea con ciò che noi misuriamo in termini di fiducia. Insomma, riteniamo veramente plausibile che i cittadini mettano mano al portafoglio per sostenere attori sociali dei quali sostanzialmente non si fidano, anzi non nutrono alcuna fiducia. Oggi i partiti, e non è un dato in realtà recente, è un dato che noi registriamo ormai da qualche anno, sono circondati da grande discredito. Nei rapporti annuali degli italiani e lo Stato la fiducia nei partiti si attesta intorno al 5-6%, e se considera che i dati di sondaggio hanno un margine di errore di circa il 3%, a volte anche superiore, siamo esattamente intorno ai numeri che citavate in precedenza, quindi sul totale dei contribuenti 2,4 se non sbaglio, e di fatto siamo ormai vicini allo zero, se non addirittura ai numeri negativi. Ma nel 2016, nelle vostre rilevazioni, non c'è stato nessun sensibile discostamento dopo che nel 2014-2015 insomma l'agenda politica era tornata nelle mani di un governo, adesso non è una dichiarazione di sostegno o meno, ma per capirci, di un governo forte però, che ha provato a incidere con riforme incisive, non si è visto nessun discostamento? Allora, dal punto di vista dell'atteggiamento nei confronti delle istituzioni e della politica nello specifico, assolutamente no. Quello che noi abbiamo invece registrato in modo molto forte nel corso dell'ultimo anno è una ripresa della partecipazione, quindi di una modalità di coinvolgimento che riguarda, l'abbiamo visto anche nello stesso dato sull'affluenza alle urne. Ma al referendum, dice? Sì, esattamente, quel 70% circa di elettori sul territorio nazionale, ma noi l'abbiamo registrato anche su una serie di indicatori relativi ad altre forme di partecipazione anche meno istituzionalizzate, anche quelle che passano ad esempio attraverso la rete, che sono in realtà quelle che crescono di più nell'ultimo periodo. E però allo stesso tempo questo tipo di dati vanno inquadrati rispetto al clima d'opinione che si registra e non sono incoerenti in realtà rispetto a quell'atteggiamento addirittura ostile, direi, nei confronti dei partiti di cui parlavamo in precedenza, nel senso che la stessa partecipazione testimonia certo una voglia di coinvolgimento, ma anche allo stesso tempo una voglia di esprimersi contro sostanzialmente la politica e i partiti stessi. Anche lo stesso risultato del referendum di fatto va interpretato in questo senso, e cioè un voto personalizzato certo, ma contro appunto il governo e il partito di maggioranza. E quando lei diceva alcuni anni, siamo in presenza di un fenomeno dal punto di vista delle relazioni sociali considerabile, già di lunga durata, o invece un ciclo che negli 20-30 anni che abbiamo alle spalle, io dico gli ultimi anni della Prima Repubblica e il ventennio della cosiddetta Seconda, si può interpretare meglio con curve ascendenti e discendenti a seconda della congiuntura politica? Ma guardi, noi realizziamo questo rapporto, siamo arrivati alla 19ª edizione, per cui ormai è molto tempo. Per questo lo chiedo, sì. E sicuramente c'è un trend discendente, però su dati che comunque risultano critici già in partenza, cioè nell'arco di 15 anni siamo passati dal 10% circa di fiducia nei partiti al 5-6% che citavo in precedenza. E se facciamo un paragone rispetto ai maggiori altri paesi europei, Germania e Francia, eccetera, trend analogo e percentuali simili o no? Trend analogo sicuramente, percentuali solo leggermente più elevati, però guardi che l'antipolitica ormai è un fatto acquisito ormai in tutti i contesti e che va di pari passo un po' con la crisi della democrazia rappresentativa, che non a caso aveva i partiti diciamo come principale infrastruttura, come principale istituzione. Non è un caso peraltro, trovavo interessante nei dati che lei citava circa il modo in cui poi questi dati del 2 per 1000 si sono distribuiti tra i principali partiti, esatto, il fatto che quelli che sostanzialmente tengono siano i partiti che mantengono in qualche modo una qualche forma organizativa. Perché PD e Lega sono questa cosa, esatto. Esattamente, e però allo stesso tempo è abbastanza chiaro che si tratta di un residuo del passato e che i partiti molto probabilmente dovranno andare a cercare altrove il modo per finanziarsi. E chi lo sa, perché su questo io nel ringraziare il professor Bordignon, devo dire che la mia preoccupazione è sempre stata che al termine, prima che finisca lo switch off totale, cioè la scomparizione totale della rata di finanziamento pubblico, quello che temo è che i tesorieri dei partiti diranno ai loro segretari e ai leader: guardate che con questi soldi noi non andiamo da nessuna parte, sono troppo pochi, e io temo forme di ritorno del finanziamento pubblico. Ci sono anche paesi europei che l'hanno recentemente fatta la marcia indietro, per esempio la Lituania, credo che sia tornata indietro, è tornato a un regime di finanziamento dei partiti. Trovate sulla voce.info a novembre un articolo che spiega come e perché lo hanno fatto. Naturalmente è un piccolo paese, il costo annuale del sistema dei partiti della Repubblica è 5 milioni di euro, qui siamo invece a centinaia e centinaia di milioni di euro l'anno, un miliardo se sommiamo tutto quello che si becca nei gruppi degli eletti locali. Sentiamo come la pensano Antonio da Latina. Antonio, prego. Buonasera Giannino. Dunque, pronto? Sì, ci dica. Ah, no, attenzione. Io devo dire la verità, ho imprecato un po' quando lei ha dato questa notizia del 2 per 1000. E perché hai imprecato? Ho imprecato perché io pensavo che la partita fosse chiusa. Quando mai? No, Antonio, quindi, noi abbiamo avuto per anni dopo il referendum, loro fecero la forma dei voti elettorali, in proporzione ai voti elettorali, un euro a voto per tutte le elezioni, si beccavano i soldi e hanno col governo Letta introdotto questo dicendo che superavano il finanziamento ai partiti. Come vede, purtroppo non è vero, perché questo è finanziamento pubblico preso dal monte IRPEF, però è molto meno di quello a cui erano abituati i partiti prima, quindi attenti, perché qui secondo me il finanziamento pubblico lo rafforzeranno. Vedrete se mi sbaglio, io temo, spero di sbagliare, ma temo di no. Continuate su Radio 24, appuntamento dalle 10 alle 12 domani in diretta per parlare riforme sì o no post Renzi, voucher, Fiat, Volkswagen, Alitalia, questi saranno i temi che